poliziesco o deve essere stonato per forza? Quanto sono alte, sembrano pentiche. Guarda, la mia c'è stata 5 metri, aveva, ne aveva pianta tre, poi era piccolino, adesso c'ha 28 anni, pensate un bel grande, è diventato un albero, no? Padre l'aveva piantata nel giardino, si è diventata di quelle grandissime frutta, era diventata un bel grande, è diventata questa malattia che si mangia come il tarlo dentro svuota tutto il tronco. Invece quella che io, papà l'ha messa, mio padre l'ha messa quando mio fratello è nato, non lo so nessuno, è nato appena 5 metri, è larga, non ti dico male, un metro e mezzo. E si fanno, prima si usava a fare queste cose qua, deve essere, perché anche il padre di Massi l'aveva messa quando... quando lui era piccolino, non so se quando è nato o proprio quando era piccolo. Io la fa ogni anno, la pulisco, gli faccio vedere cosa vuol fare, però una cosa, il quadro se l'ho mai preso? Il quadro da palma se l'ho mai preso? Lo so, dite che si mangia, già lo sai, si mangia i gitti, proprio lui. Ma perché, se lui se lo fanno le palme, il signore delle palme? Molti hanno fatto ormai il cuore, se da me entri il braccio non lo toglie più. È perché è un bel forte. No, perché c'ha le spine, beh, messe tipo ancorette, almeno ce le infili, ma come va a togliere il braccio? Non lo toglie più il braccio, ti rimane dentro. Dunque questa malattia dice che la sua il tronco l'hanno dovuto tagliare. Sì, la tagliamo, la tagliamo qua la su a fette, se buttavano così, se no non la può buttare, se no casino. Beh, non so, ma devono chiedere il permesso, non è tagliata mi pare. Hola, sì, nella tua proprietà privata, ma non ci vuole permesso. So, non so se si possa fare. Ho la tagliata un tipo vicino a casa, no, non ha chiesto permesso. Invece noi l'abbiamo tagliata a Plattamona dove c'avevamo un negozio e abbiamo dovuto chiedere permesso a forestare, tu sei scelto a fare quello. Abbiamo dovuto festinare proprio un permesso, se lo sanno, anche se si proprietario, sono cacca. Cosa privata non si possono dire niente, cosa privata, cosa chiesto anch'io. Però se sei tipo non a turisti, che tu fatto amore a portatore di intorno, allora sì. Io praticamente so che il mio principale ha chiesto forestare prima di tagliare. Guarda, ho chiesto di valutarmi la farma, la farma valutata, 15.000 euro però, la farma che io costa. Ah vai, cosa? Allora, ho fatto valutare, togliendola per venderla, 15.000 euro, però non la taglierò mai. Ma da chi te l'ha fatta valutare? Niente del comune. Ah no, no, a perdere là. Secondo me è una palma cosa questa, scusala. Ma che palle, lo so io. Casino, Un casino, no? Se tu vuoi essere un casino. Facciamo le palme. Come? Facciamo le palme. Le palme? Esatto, è un casino, le palme. Io sì, c'è stato già sono uscito, ho trovato il tipo del comune, mi ha detto che è mercoledì a polizia, ci è uscito. Vabbè, la sera, questo no. Cioè, quando inizia già a fare freddo, fresco, inizia già a essere buio, diciamo, per il tiro, non c'è campato, no? Non mi basta più, non mi basta più. Sto alzando, infatti sono a bevere il freddo. No, se lì c'è la moto, facciamo un giro adesso, poi non lo tutti i giorni, se così facciamo un giretto, così poi nemmeno. Almeno. Poi c'è mia cugina che si vede solo a monte anche. La pacca, ma... Giro. Sta in Germania, tutti i tedeschi, in Italia, tutti pronti. Ia. Come? Come stavo a dire che in Italia rischia, in cazzo, se non si. Che ti dai il vero? Confermi? Confermo. Sono a guadagnare i soldi su spalle degli altri. Io so, via. Qua veramente chi lavora non ha quello che deve avere. Cioè, nel senso che non viene appagato bene. Capito? Sono quelli che non fanno un cazzo, ci prendono lo stipendio e da far niente. Questo qui sono i cazzo di furbi che quando mangiano la carica se ne fregano anche le scarpe, il problema è V. Per dirti, ma ci fai che lavoro, si fanno il mazzo, quelli vengono pagati male, però vengono pagati le ore in più, capito? Sono ritardato, guarda. Beh, io mi sto dicendo, non la carica, se non c'è butta della spesa, con Mercedes. Più mai di degli altri, proprio che non ne ha bisogno, chi ne ha bisogno non gliene danno. Mercedes, BMW, Golf, giù va tutto blu blu, sono più qui qua, fanno meglio di noi forse. Casino, è un casino, capito? C'è una tira qua no, il maio. Muta ce l'ha meglio anche. E apri i bacini e te li raccogli. Ma quando c'è il mio cane. Vai, vai. Che anni che ti ha fatto? Che anni? Chi sei? Sei già bloccato, hai tu che? Gianni. Ha trovato la scusa, un attimino. Attenzione, Tino. Sei entrato. Vai, sei entrato, sì. Ma cosa di Tino stasera? Sì, io sono Antonio. Stavate cambiando di posizione l'apparecchio, non se l'ha messo in sala. No, devo portare la roba che serviva. Ah? Io si è spostato l'apparecchio, me lo stavo dicendo poco fa. Se l'ha messo in sala, perché qui l'ha trattato. Figlio? È la cameretta. Così è Antonio, la figlia vuole la cameretta adesso, per arrangiarsi. Ma si dice che non ne frega più, non è modulato. Sì, ma c'è sempre l'antenna, c'è sempre l'apparato. Se non l'ho messo sul tetto. Esatto. Sul tetto l'ha messo a me. Ci ha messo quella piccolina, tipo portato di scopo. Ah, come c'era Antonio, dai. La Storm 27. La gara. Mantenna già, allora questa brutta cosa però già va bene. Per la città va bene, ma non per fuori. Se per fuori ci fa l'antenna come le nostre, se no, cioè, se no non usciamo. Ma c'è anche vero, ma se non abbiamo un'antenna con te e dopo. No, ha detto, mi fanno le cose di faccia a testa. Sì, no, l'altro giorno stava dicendo che c'è una piazza a te, in campagna c'è una piazza a Varusi, l'altro giorno l'aveva. Che cosa ha fatto mio fratello? Quando risale, ormai ce l'ha fatto tranquillamente, non è che diamo anche cose lunghe? Lo so. Come che io l'antenna, anche se trovo l'antenna, c'è sul tetto, non so, c'è stato da solo, figurati. L'antenna? Da solo, ho messo il palo. Mi sono fatto il raccolto dell'antenna, nuovi, l'ho fissato con la cosa infrettata, c'è sul tetto, l'ho piazzata, l'ho tirata su. Cancellare qua, adesso va a terrazza, perché sono a 1.3. Piazza Tragosi a Menafuna, non è che è tarata. No, è la terrazza su altri canali. Vuole tarata adesso. E non scendo, ma se giù non la stavo, non è che mi ha tomato molto. Una volta che tu la tarantura la fai, basta che gli fai un segno, la metti a quel segno lì e non sbagli più. Lo devo sollevare leggermente la spirale che c'è, ma leggermente, di poco centimetro. Aiaia. Perché tarata su frequenza che non si può andare. Gaba gaba. 35. Guarda che fatto di affari brutti. Dimmi. 28. Ah, cazzo gaba. Allora. Ma quindi va tarata l'antenna. Ma 15 minuti già pronto da piazzare. E mia madre, che stava facendo giornate belle in questi giorni qua. Ma ieri no, ma oggi ha fatto una bella giornata, ha approfittato. Barracuda ce ne sono in giro, eh? adesso non più, perché c'è troppo freddo, ma questa non può aprire la figura, perché è proprio un brinchendi. Non più, che ci sono andato al mercatino, pensate sì, ieri stavano vendendo barracuda, ce l'aveva una ragazza che stava vendendo lì, c'era barracuda tutta di pesce, di tutto c'aveva. Poi io ho visto barracuda, avevo da pescare io, ma poi ho visto dei pezzi di predatori che c'era voi vivo che ci avete fatto a fuoco ieri. Una volta ne ho visto una di spigola, ne ho messo il pesce vivo, ho preso un mucide che avevo pescato, gliel'ho messo vivo nel coso con due armi, uno sul dorso e uno nella coda, sopra però non che mi dia fastidio lontano. L'ho appoggiato nell'acqua e lui ha cominciato a correre. Poi gli giravo attorno la spigola, cazzo, si dice, ah, pronto sì, mi chiede attorno, mi chiede attorno, un cavolo, non ne ho mangiato. Tu già fai i cropati di topolini in questi animali, poi da topolino la spiga, non vedere se la prendi. E Javier dice che la pescano così con i zuppi. I topolini, mi sa di calmare e mettere qualche amo, un pezzo di pizza vicino alla pizzeria sua, così è per qualcuno. Ma cosa? E tu avresti il coraggio di toccare i zuppi? Ah, per carità. Quelli che c'erano a fratello no, per carità, avevo visto uno che era un gatto, sembrava. C'è il tuo fratello? Sì, lì aveva una velocità. Ah, sarò, diceva lui. No, gli altri sono brutti, ci può dire. Eh beh, ah, quelli fanno proprio schifo, va. Ne ho visto uno che era quasi un gatto, figurati. Ehi, guarda su YouTube, te lo farò vedere uno che viene ammazzato a sassa. Tu immaginavi qual è? Hanno messo sul cofano della macchina, mi hanno creato un goffo. Ah, cos'è, un cane? Sì, super giù. Per giù. E quello è come hanno fatto le foglie di sassa, vero? Le hanno fatte passaggi. Allora, esci che usciamo, faccio un giro. Torna le aria, vai, che c'è l'aria cattiva dentro. Sono usciti fuori i cagnolini, mi sembra i gattini. A Napoli una volta avevano sbranato un uomo, detto che no, lo sai. Se sono quelli che sono tipo di sassi, li posso immaginare. Sarlo. Posso immaginare, come c'era un invasso. Immagino. Ma loro ce l'hanno fatto meglio. Sveglia. Ma sa se c'è una cosa allucinante. Sembra che cominciano i lavori e poi li mollano così. A me la piazza Castello, a Cantroviso, sono sempre bloccato. Castello ha deciso di rimettere il castello nuovo all'aria aperta. Già. Hanno voluto mettere il castello di nuovo in vista per vedere i turisti. No. Capito, già. Fammi vedere fondamenta. Appunto, il castello vecchio di Sassa, richiamo sotterrato molti anni passati, ritrovato, risotterrato, adesso l'ho trovato, l'hanno ritrovato, l'ho scavato, vogliono metterlo in mostra. E cosa c'è scritto? Sono recintato ancora. A metterlo in mostra. E mi sa che cosa avevi scritto, che c'è un castello, ma la via c'è scritto, la c'è scritto. No, così so perché mi ha detto un amico che è in politica. E comunque negli scavi avevano trovato un po' di roba, avevano trovato un fiume che passava la piazza d'Italia, c'era la piazza Castello, le fondamenta, e c'erano i sottopassaggi. Largo, no, sulla Caterina, l'avevano già messo sotto. Io l'ho vista quella lavoro lì. Ci sono sottopassaggi in casa. C'è il processo di sotterranea per proprio. Fognera. No, c'è proprio, uno ci vuole passare di sottoterra. Io ho visto i lavori, ho trovato palazzi di sassi sotterranei, per ricoprirsi. Non so, ma... dovevano usi per questo. Come Pompei, Italia, l'Ambiocco. Vi saluto tutti, belli e brutti, e vi auguro buonanotte anche agli ascoltatori. Ciao a tutti. Ciao, buonanotte, vai, ci siamo alle prossime, adesso.